se ne andrà poi la luce del mattino. Una cometa, un sogno che si addormenta in un giardino. Insieme al pianto e a tutta questa noia che ci cammina accanto senza alcuna gioia. Lo vedi il giorno? Il giorno si allontana e alla finestra una voce che ti chiama. Più ad aspettarmi, ricorderò il tuo viso per consolarmi. E che importa se adesso sono come sono, tanto domani tutto cambierà, ma non cambierà la gente. Quella è sempre uguale, che resterà per strada quella sua voglia di parlare. Tra buoni amici e inutili discorsi che sembrano veri ogni volta che li ascolti. Tu lascia perdere, convinciti da sola che l'uomo non è solo una parola. Piangevi sopra una canzone, quando tutto credevi, pensavi fosse amore. E amore avrai nei tuoi giorni senza fine, sotto Natale con tutte le lucine. E se qualcuno ti impedisce di brillare, tu chiudi gli occhi e rimettiti a sognare.